24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino, siamo in diretta, è tornato l'Alpino, il nostro Peter Bescapelli in regia, bentornato, eccoci dunque con la sua penna nera. Siamo su Twitter, @24mattino, oppure @AlinoMilan. Siamo anche su Facebook, ci trovate così, 24 mattino, potete ascoltarci in streaming su radio24.it, insomma, siamo interattivi, eccoci. Siamo in diretta fino alle 9 e avremo ospite Luca Zaia, il governatore del Veneto, alle 8.20. Poi parleremo ancora di stipendi, di poltrone e doppi incarichi. Abbiamo scoperto c'è un altro sindaco in Sicilia, il sindaco di Marsala, che è anche deputato regionale. È una cosa che non si può per la Corte Costituzionale, ma quando si tratta di lasciare le doppie poltrone ci sono sempre dei motivi per non farlo, non si capisce bene. Tra l'altro proprio oggi, 9 luglio, è il giorno in cui Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, dovrebbe dimettersi dalla Camera, così ha promesso. Staremo a vedere, intanto andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. È appunto il 9 luglio, lunedì, e vediamo i titoli di apertura. Il Sole 24 Ore, l'anno nero dei professionisti. Questo è il titolo dell'edizione del lunedì. Dagli avvocati ai commercialisti nel 2012 un giro d'affari in flessione fino al 30%. Non un dato certamente confortante. E poi praticamente tutte le aperture dei quotidiani sono sulla botta e risposta tra il presidente di Confindustria Squinzi e ieri la risposta molto dura del premier Mario Monti. Monti, basta danni all'Italia, questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica invece l'ira di Monti su Confindustria. La Stampa, tagli, Monti attacca Squinzi. Il Giornale, vietato criticare Monti, il premier permaloso. Il Messaggero, Monti avvisa Confindustria, mentre l'Unità, taci, lo spread ti ascolta. Queste le aperture. Il Secolo XIX invece è un'apertura ancora sulla vicenda Diaz, con una novità che c'è solo su questo giornale. Diaz, lo Stato chiede i danni ai poliziotti. La Corte dei Conti acquisisce gli atti, violata l'immagine dell'Italia. Ma voglio partire con quello che ha combinato il presidente della Regione Sicilia, Lombardo, che tra l'altro è in via di dimissioni, credo il 30 luglio, più o meno il 28 luglio, adesso il 31, dovrebbe farlo il 31 luglio, ecco, ho letto adesso sui giornali. Lombardo, cosa si fa in genere quando si sta per terminare un mandato? Molti politici decidono di nominare a capo di enti che dipendono dalla regione o dal comune, dalla provincia, dei presidenti. Spesso gli si accusa di nominare persone vicine dal punto di vista politico. Ebbene, anche in Sicilia ci sono state 100 nomine. Lombardo, 100 nomine dopo le dimissioni, così titola Repubblica. Il problema qual è? Non è tanto le nomine, si potrebbe criticare già questa idea, ma uno dei nominati è stato messo a presidente di un ente della Regione Sicilia, ma non potrà accettare questo incarico. Il motivo è in carcere. Può sembrare incredibile questa vicenda, ma invece è tutto vero. Sotto governo in Sicilia, uno dei prescelti era in carcere per stalking. Così sempre su Repubblica, ma anche il Messaggero dedica un'intera pagina o mezza pagina a questo. Nominato da Lombardo, ma lui è in carcere per stalking. Allora leggiamo dall'articolo di Emanuele Lauria da Repubblica, pagina 12. All'ultima fatica c'è scappato l'incidente, il nominato non può insediarsi. E perché? È in galera, ha fatto sapere qualcuno a Raffaele Lombardo. Troppo tardi. L'ennesima indicazione fornita dal governatore aveva già concluso il suo percorso amministrativo. L'Assemblea dei Soci di Sicilia e Servizi, una ricca SPA pubblica che si occupa di sistemi informatici, aveva regolarmente eletto alla guida del Collegio dei Sindaci il professionista designato dalla Presidenza, vale a dire Eugenio Trafficante, commercialista di Burgio, che aveva tutti i requisiti tranne uno, la libertà. Trafficante, infatti, 4 giorni prima dell'elezione era stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti di una donna. Siamo stati sfortunati, ma nessuno ci aveva avvertiti del fattaccio. Questo ha detto il commissario dell'ente, Antonio Vitale. Poteva, doveva succedere anche questo nel sontuoso cantiere elettorale di Lombardo. Dal 26 aprile, quando ha annunciato ai colleghi dell'Assemblea regionale l'intenzione di dimettersi, il presidente e la sua giunta hanno fatto 100 nomine di sottogoverno, un incarico e mezzo ogni giorno. E nei board delle società regionali, scrive Lauria, hanno trovato posto per esempio il capo della segreteria, Pippo Greco, l'addetta che tiene l'agenda del presidente, Agata Rosano, ma anche il vice capo di gabinetto, Gianni Silvia, e Cleo Licalzi, responsabile della segreteria tecnica. Ecco appunto quando si dice stretti collaboratori. Biagio Semiglia, il blogger che cura il sito personale di Lombardo, si è visto rinnovare la consulenza da oltre 3.500 euro al mese. E poi c'è, tra gli esperti del presidente, c'è spazio anche per l'ideologo del suo movimento per l'autonomia, Beppe De Santis, per il commissario del movimento a Messina, Antonio Andò. Marcello Caruso, dirigente palermitano dell'MPA, ha avuto in dote l'istituto Vino e Olio. L'ex deputato Rizzotto ha avuto invece la presidenza della società Lavoro Sicilia, ma Rizzotto, addolorato, ha fatto sapere di non poter accettare perché ha un impiego pubblico non compatibile. Insomma, così. E poi questa scelta, la scelta di un uomo che però è da 4 giorni in carcere per stalking. È una nomina sfortunata, succede. Mentre oggi il giornale, con Giannino della Frattina, pagina 7, torna sulla vicenda dello stipendio, il super stipendio, fa sapere il giornale da giorni, del commissario alla Scala Stéphane Lissner. Vacilla lo stipendio d'oro di Mister Scala. L'hanno preso di mira, insomma, da qualche giorno. L'Italia dei privilegi. L'ultimo attacco è anche di Formigoni, che ha attaccato con un tweet, credo, ieri il sovrintendente Lissner. O si riduce il compenso o la regione diminuirà il contributo al teatro. Il giornale racconta: è una grana questo stipendio che è di 449.000 euro della retribuzione fissa, la quale va sommata una parte variabile parametrata su obiettivi definiti non certo irraggiungibili di 155.000 euro, più un lussuoso appartamento a Piazza del Carmine da 85.000 euro l'anno, il TFR, quota INPS e altri oneri a carico dell'azienda fino a 200.000 euro, arrivando così a 800.000, a cui vanno aggiunti 70.000 euro della berlina con autista, carta di credito, spese di rappresentanza impossibili da quantificare. E più quel premio di fine lavoro di 300.000 euro da incassare prima di andarsene eventualmente nel 2017. Insomma, pare che oggi ci sia un incontro su questo. Lo stipendio del sovrintendente Lissner è da qualche giorno nel mirino. Visto che si parla di soldi, voglio un po' ingolosire con questa notizia che il Quotidiano Nazionale ha messo a pagina 12, Il Giorno, l'edizione del Nord. Robert Downey Jr., uno degli attori più famosi di Hollywood e in questo momento anche più di successo, ha deciso di comprare un super attico con vista Duomo a Milano. Questo almeno dice appunto Il Giorno. Abiterà vicino a San Babila, dunque in pieno centro. Udite il prezzo: da poco diventato proprietario di un attico in pieno centro a Milano, magari ve lo volete comprare anche voi, potreste fare concorrenza a lui. L'ha pagato questa cifretta, 30 milioni di euro, nessun refuso, 30 milioni di euro, quanto 3 stipendi annuali di Ibrahimovic. Non si capisce perché questo parametro. Comunque, a conferma che quello del mattone non è esattamente un mercato in crisi, almeno per Robert Downey Jr. 350 metri quadri ripartiti in un numero non meglio precisate di stanze. Ciliegina sulla torta anche un immenso terrazzo, inclusa piscina. E vabbè, insomma, 30 milioni di euro. Che sarà mai? D'altronde, in vista Duomo, a San Babila, Robert Downey Jr., magari se vi aggirate per il centro, tra poco lo potrete anche incontrare. Intanto noi ci fermiamo per 5 minuti. E allora eccoci qua alle 7:34 minuti. Come detto, tutti i giornali più o meno aprono con la polemica a distanza tra il presidente di Confindustria Squinzi, che sabato è intervenuto in un convegno con la leader CGIL Camusso, e ieri la reazione del premier Mario Monti, una reazione molto molto dura. Tutti i giornali titolano su questo: le parole di Squinzi fanno aumentare lo spread. Questa è l'accusa del premier Monti. Ieri era in Francia, scrive per esempio Marco Galluzzo a pagina 2 sul Corriere della Sera. Sfila un foglietto stropicciato dalla tasca, mette a fuoco le date che ha puntato con cura, poi inizia l'elenco di quella che chiama una lunga serie. A fine marzo Marcegaglia aveva detto alla stampa internazionale che la riforma del lavoro era pessima, il 19 giugno Squinzi ha detto che è una boiata, ieri il presidente medesimo Squinzi si è associato ai commenti di un leader sindacale nel sottolineare i rischi di macelleria sociale, poi ha dato un voto al governo. Insomma, dopo aver messo in lista tutte queste cose, Monti ha detto: dichiarazioni di questo tipo, come avvenuto nei mesi scorsi, fanno aumentare lo spread e i tassi a carico non solo del debito ma anche delle imprese, quindi invito a non fare danno alle imprese. È un'accusa molto forte che ha ovviamente alimentato la polemica. I giornali dedicano molte pagine su questo, per esempio il Corriere fa sapere a pagina 3 con Enrico Marro gli industriali con il governo, ci sono Montezemolo che dice: quelle pronunciate dal nostro leader sono parole che fanno male, o Tronchetti Provera, o Bernabè che fa anche un'intervista a Repubblica, intervistato da Giovanni Pons, l'amministratore delegato di Telecom, dice: la Confindustria deve interagire con l'autorevolezza del suo contributo tecnico e non combattute, e quindi termini che possono essere legittimamente usati dai sindacati non devono essere utilizzati dalla Confindustria. Il Giornale invece intervista, su questo ci si divide, si discute. Ettore Riello, industriale che è in Cina in questo momento, intervistato da Gianmaria De Francesco, invece dice: Squinzi ha ragione, qui le aziende muoiono. E stiamo perdendo competitività, nessuno dà sostegno all'export delle imprese. Squinzi, che è stato vicino al territorio, al nostro sistema produttivo, non può non essere preoccupato, e dunque suggerisco al presidente Monti di ascoltare le indicazioni di Confindustria, perché la sua cura può funzionare ma alla fine il paziente sarà morto. E tra l'altro fa sapere oggi il Corriere della Sera: Squinzi interverrà in un'assemblea e potrebbe della Confindustria locale, nella quale potrà dire qualcosa, forse potrà precisare. Oggi è a Lucca, mentre su Repubblica, sempre su Repubblica, si racconta di uno Squinzi che dice: io non indietreggio, dico ciò che penso, non cambio stile. Roberto Mania, pagina 9. Io sono fatto così, rivendico il diritto di dire ciò che penso, e dunque un Giorgio Squinzi che non fa marcia indietro, racconta Repubblica. Visto che dall'elezione a presidente il 24 maggio scorso ha girato in lungo e largo l'Italia, 32 assemblee territoriali, per raccogliere l'angoscia degli imprenditori di fronte alla profondità di questa seconda recessione, ecco allora che Squinzi ha maturato queste dichiarazioni, sulle quali racconta appunto Mania di Repubblica. Non è pronto a recedere. Ieri il cellulare del presidente di Confindustria, racconta Mania, è diventato incandescente, ma non a tutti ha risposto, e con chi l'ha fatto non si è rimangiato nemmeno una virgola, anzi è rimasto sorpreso dalle reazioni. Sorpreso dalle reazioni, c'è da dire, anche il direttore dell'unità Claudio Sardo, che oggi commenta in prima pagina. Tra l'altro c'è una, se volete, curiosa joint venture nei titoli dei giornali tra il Giornale e l'Unità, che certo sono schierati politicamente in modo ben diverso, come sapete, e però i titoli sono più o meno gli stessi. Il Giornale: il premier permaloso, vietato criticare Monti, e così anche l'Unità: taci, lo spread ti ascolta, scrive Claudio Sardo, cioè il direttore dell'Unità, nel suo commento di prima pagina dal titolo Il lavoro contro la finanza. Il presidente del Consiglio mal sopporta le critiche, soprattutto quando provengono dall'establishment del paese. È sempre cortese, ma piuttosto permaloso. Lo ha già mostrato in altre occasioni. La reazione di ieri alle parole di Squinzi suona tuttavia particolarmente stonata, più di una banale caduta di stile. Innanzitutto perché il neopresidente di Confindustria, ospite a Serravalle Pistoiese della festa della CGIL, si era limitato a dire che bisogna evitare la macelleria sociale, parole di buonsenso di un padre di famiglia, non certo la denuncia di un oppositore pregiudiziale. Per questo Squinzi non meritava la condanna del Premier, la messa in mora col marchio di anti-italianità. Si può ancora esprimere una critica in questo paese senza che si tenti di ribaltare le responsabilità? Peraltro, se mai questo spread avesse un udito così acuto, c'è da dubitare che il rischio paventato da Squinzi l'avrebbe eccitato. Non si sostiene forse che i mercati sono assetati di sangue ed esigono esattamente la macelleria sociale come prova di affidabilità dei governi? Semmai lo spread avrebbe dovuto scendere a ridosso delle dichiarazioni di Squinzi e Monti avrebbe potuto esibirle come prova di rigore e fermezza. La verità è che Monti mostra di non sopportare lo stile di Squinzi e la sua ostentata autonomia di giudizio, figlia probabilmente di un'idea delle autonomie sociali che mal si concilia coi paradigmi ultraliberisti oggi dominanti. In ogni caso, insomma, questa polemica che si è accesa tra sabato e domenica oggi tiene banco sui giornali. C'è un'altra vicenda che riguarda il 2013, il futuro, le imminenti elezioni, perché ormai manca meno di un anno, e la domanda che cominciano a porsi i giornali. Ma non è che Mario Monti pensa seriamente a continuare a rimanere, insomma, a Palazzo Chigi anche dopo il 2013? Su questa domanda si interrogano molti, soprattutto dopo che ieri fa sapere Carmelo Lo Papa nel retroscena di Repubblica sulla politica, Mario Monti ha risposto dicendo: insomma, non ne parlo, però non è che ha detto, come in passato più volte ha detto, assolutamente no, io non ci sarò dopo il 2013. Il professore disse: io nel 2013 valuto, ecco, valuto. Troppe incognite sul futuro dell'Italia, sul paese che verrà dopo e senza Monti. Il presidente del Consiglio, che vola oggi all'Eurogruppo a Bruxelles per difendere e rilanciare l'intesa raggiunta 10 giorni fa al Consiglio europeo, dice a questa domanda, per la prima volta fuori dai confini nazionali, lascia trapelare una velata disponibilità a proseguire la sua opera anche dopo il 2013. Se gli sarà chiesto, se le forze politiche che lo sostengono anche dopo le politiche lo riterranno necessario, lui resta a guardare. Alla domanda: presidente, se non adesso verrà un momento in cui sarà necessario, forse a settembre, ottobre, quando l'ipotesi di elezioni anticipate sarà definitivamente tramontata, dare una risposta su cosa sarà del futuro, il Premier non dà un assenso, ma non si oppone nemmeno all'ipotesi. Sospira, lascia cadere l'argomento. Il fatto è che anche a Roma se ne inizia a parlare con maggiore schiettezza. A Monti non sono sfuggite le aperture di questi giorni di un falco berlusconiano come Fabrizio Cicchitto, capogruppo del PDL. Anche la dichiarazione, per esempio, del ministro Piero Gnudi 2 giorni fa. Monti è una risorsa per il paese su cui si dovrà far conto. E su questo allora ci si interroga. Anche il Corriere della Sera, pagina 2, il Premier e l'ipotesi di restare oltre il 2013. È prematuro parlarne? Porsi il problema oggi non farebbe bene al governo, ma certo si comincia a profilare questa ipotesi, cari italiani. Intanto si capiscono i contorni sempre più nitidi di quella che è stata il provvedimento che ha tenuto banco la scorsa settimana, vale a dire la spending review, la revisione della spesa che ora dovrà approdare in Parlamento. Si attendono gli assalti alla diligenza di tutte le lobby, come normale che sia in Italia da sempre. Oggi sul Sole 24 Ore, tra l'altro un'edizione del Sole 24 Ore che vi ricordo esce con allegata gratuita una guida pratica per gli incentivi e lavori di ristrutturazione previsti dopo il decreto sviluppo, quindi se volete sapere tutto per quel che riguarda i lavori di ristrutturazione lo potete fare con questa guida che trovate con il Sole 24 Ore di oggi. Oggi, dicevo, il Sole fa uno studio su che cosa riguardante la spending review. Beh, sulle regioni e i comuni, chi spende di più e chi spende di meno. Gianni Trovati a pagina 7, regioni e comuni nel mirino dei tagli, chi spende di più. Per beni e servizi sono quelle classifiche che fanno sempre parlare e che fanno anche un po' scalpore e che fanno anche un po' incazzare, diciamola tutta, e che sono pubblicate dal Sole 24 Ore. Penne, carta, fotocopiatrice, ovviamente monitor, tastiere, l'arredamento tipico di tutti gli uffici privati e pubblici. Il problema messo a fuoco dal decreto sulla spending review è che si può riassumere con un paio di numeri. Per la cancelleria e materiale tecnico informatico, per fare un esempio, la Lombardia ha speso nel 2011 €9 per 100 abitanti, 9 euro ogni 100 abitanti. In Piemonte 55 euro per 100 abitanti. E come mai? In Sicilia 102 euro, vale a dire più 113 volte più del Pirellone, cioè la sede della Regione Lombardia. E come mai? Quanto costano questi monitor, queste penne, questa carta in Sicilia o in Piemonte? Perché costano così tanto di più? Oppure, cambiamo voce, passiamo agli studi, consulenze, indagini, gettoni di presenza. In Abruzzo sono costati l'anno scorso 40 euro ogni 100 abitanti. In Sardegna 683 euro per ogni 100 abitanti. Come mai? Che gettoni di presenza date? Che consulenze date voi in Sardegna? Siete cari? Fate pagare care le consulenze, eh? Poi, per far conoscere le proprie attività, le regioni si trasformano in editori, anche qui con un impegno diverso. Pubblicare giornali e riviste nel Lazio costa 3 euro l'anno ogni 100 cittadini. In Lombardia il doppio, 6,2 euro. In Calabria 33 volte tanto, 11,3 euro. E cari calabresi, che dovete, come dovete informare? Cosa scrivete? Scrivete i caratteri in oro nelle vostre pubblicazioni? Allora, il tema è questo: beni e servizi, le regioni che spendono di più e che spendono di meno. Trovate poi tutti i dettagli per tante altre cose. Questo è il tema della questione dei costi standard. Bisognerebbe stabilirlo una volta per tutte, questo costo standard per tutto, e adeguarsi a quello. Basta. Quindi, come al solito, in Italia si sa dove ci sono gli sprechi. Questi sono dati scolpiti, nei quali indiscutibili. Non può costare la carta e la penna 7 euro ogni 100 abitanti in Lombardia e 100 euro in Sicilia. Non è possibile, perché siamo tutti nello stesso paese, è sempre la stessa penna, è sempre la stessa carta. Quindi si sa dove tagliare. Si riuscirà a tagliare? Questa è la domanda che vi lascio, a voi insieme al traffico. Sì, ho detto che 33 volte in Calabria, è 3 volte, vabbè, ho sbagliato, adesso mettetevi voi qui in diretta, al mattino presto. Comunque, insomma, avete capito che ci sono dei costi assurdi, delle diversità almeno di costi assurdi per comprare penne, cancellerie, le stesse cose nelle varie regioni italiane. In ogni caso, quello che invece si è saputo di più dal decreto spending review è qualcosa sugli statali. Dalla relazione tecnica allegata alla spending review c'è un primo dato: 24.000. Questi sono gli esuberi al pubblico impiego. 24.000 sono gli esuberi, leggo per esempio dalla Stampa, pagina 4, 201 milioni di risparmio dall'introduzione del cedolino unico, 90 dal taglio degli affitti, quasi 54 al livellamento dei buoni pasto a 7 euro, ma a 3 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, appunto, le previsioni sugli esuberi sono quelle più interessanti, visto che si parla di posti di lavoro. 24.000 si calcola che siano i dipendenti pubblici in più, di cui 11.000 nell'amministrazione centrale, 5.600 nei ministeri, gli altri negli enti pubblici non economici, e 13.000 negli enti territoriali, escluse le regioni. 8.000 sono le persone che potrebbero, con i requisiti, scivolare verso la pensione. Tra gli 11.000 sarebbero 6.000 i pensionabili al 31 dicembre scorso, 2.000 negli enti locali. Insomma, numeri che vanno ovviamente poi calcolati con precisione, ma questo primo numero, 24.000 esuberi nel pubblico impiego, potrebbe essere già un dato, è il dato, diciamo, contenuto nella relazione tecnica che accompagna il decreto sulla spending review. C'è ancora il tema della Diaz, di cui ci siamo occupati venerdì, le condanne in via definitiva ai poliziotti per l'assalto alla scuola Diaz nel G8 di Genova e i successivi arresti. Oggi il titolo più interessante, beh, due sono le notizie. Il primo, che ha parlato Gianni De Gennaro, che allora era capo della polizia, oggi è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con la delega tra l'altro sui servizi segreti. E il titolo del Secolo XIX è questo: Diaz, lo Stato chiede i danni ai poliziotti. Questa è la notizia che viene data dal giornale, al quotidiano di Genova. La vicenda è questa, racconta Graziano Cetara a pagina 5. Le scuse non bastano, ora servirà mettere mano al portafogli. La cenere sul capo che è il numero uno della polizia, Manganelli, si è cosparso all'indomani della condanna in Cassazione, a cui si aggiungono ora le parole del vertice di quei giorni, non alleverà la richiesta danni destinata ad abbattersi sugli imputati. Per il massacro alla Diaz, le false prove, le calunnie di quella notte, mistificazione al termine del G8 di Genova, a presentare questa richiesta sarà lo Stato, lo stesso loro datore di lavoro. La Corte dei Conti della Liguria, che aveva già aperto un fascicolo, nel giorno successivo all'ultimo capitolo giudiziario si è presentata in Procura Generale per cominciare a riempire in gran segreto questa richiesta. Gli emissari del procuratore regionale Bogetti hanno acquisito la sentenza, gli atti relativi allo svolgimento del processo sulla cosiddetta macelleria messicana, e ora passeranno alla richiesta danni. Il Secolo fa sapere che la stima per ora è impossibile sapere a quanto ammonterà, ma questo è un passo che sicuramente ci sarà. C'è invece anche l'altra questione, che è tutta la polemica legata alla dichiarazione, dopo tre giorni di silenzio, Gianni De Gennaro, che allora era appunto a capo della polizia, ha emesso una nota ufficiale che recita così, fa sapere Fabrizio Caccia a pagina 19 del Corriere della Sera: le sentenze della magistratura devono essere rispettate ed eseguite sia quando condannano sia quando assolvono. E qui c'è da fare un inciso, perché questa frase la dice De Gennaro riferito probabilmente al fatto che lui è stato invece assolto da un'altra sentenza della Cassazione. In seguito, ancora De Gennaro, alle decisioni per i gravi fatti di Genova, le competenti autorità hanno puntualmente adempiuto a tale dovere, operando con tempestività ed efficacia. Per quanto mi riguarda, ho sempre ispirato la mia condotta, le mie decisioni ai principi della Costituzione e dello Stato di diritto, e continuerò a farlo con la stessa convinzione nell'assolvimento delle responsabilità che mi sono state affidate in questa fase. Le critiche sono, che ne so, il padre di Carlo Giuliani a dire prova dolore ma non chiede scusa, addirittura Agnoletto, Vittorio Agnoletto, che era il leader in quell'epoca al G8, dice sono parole di un arrogante capobanda, cioè la critica a De Gennaro è questa, non chiede scusa. Infatti i titoli sono: G8 da De Gennaro, solidarietà ai condannati, dolore per chi ha subito torti ma io corretto, questo è il titolo di Repubblica, oppure anche sul Corriere della Sera: De Gennaro, il caso della Diaz, rispettato lo Stato di diritto. Vabbè, questo dai giornali. Che c'è da dire? C'è anche la Gazzetta dello Sport, vi fa sapere l'alpino Peter Bescapè che oggi si raduna al Milan, e questa è la notizia del giorno di calcio. Un Milan mai così giovane, titolo della Gazzetta, giovane. Genere quando si dice di un giocatore è giovane, è che è un brocco e quindi è giovane, si farà. Vabbè, arrivano tempi duri, caro alpino. Mi sa che così va quest'anno, ma non demordiamo. Il giornale radio. Mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, nuovamente qui alle 8:20 minuti in punto. Voglio parlare oggi di attualità politica, parliamo di questa revisione della spesa, la spending review, lo facciamo con il governatore del Veneto, Luca Zaia, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno dottor Milan, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, lei è uno dei governatori che più ha criticato questa spending review, cosa non le piace soprattutto? Italia la sanità? Ma guardi, io sono per la spending review, penso che una bella dieta dimagrante a questo paese serva e sia salutare. La verità è che fare tagli lineari finisce di punire i virtuosi e premiare ancora gli spreconi, ovvero massacri le formiche e premi del cicale. Per esempio, so che nella regione Veneto voi siete effettivamente una delle regioni più virtuose dal punto di vista della spesa della sanità, però mi pare che ci siano sui 19.000 posti letto e il 20% vanno tagliati. Lei è cosa è disponibile a concedere su questo, o è disponibile a dire no, non si passa e faremo battaglia dura e pura? Guardi, le dirò di più, mi permetta di correggerla. Innanzitutto la regione del Veneto è la più virtuosa d'Italia, questi sono i dati ministeriali per la spesa sanitaria. Noi non abbiamo il problema del parametro posti letto, perché la spending review lo pone a 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti, noi siamo a 3,5, per cui non abbiamo nessun problema di taglio. Tantomeno abbiamo i piccoli ospedali, perché da noi sono spariti da anni. La verità è che ci vorrebbe più coraggio a Roma se applicassero i parametri, che so, le faccio un esempio, del Veneto, della Lombardia, avrebbero molto più gettito e ovviamente eviterebbero molto più spreco. Invece si sceglie di avere meno gettito di miliardi di euro con la spending review, ad esempio sulla sanità, penalizzando chi già la cura dimagrante l'ha fatta. Cioè voi volevate, come dire, andare a fare questi costi standard, per esempio, e colpire e adeguarsi a quello, e lei dice noi al Veneto siamo a posto, che si adeguino gli altri. Ma le dico di più, se una siringa costa 6 volte tanto in giro per l'Italia rispetto al Veneto, la Lombardia, il Piemonte o l'Emilia, non capisco per quale motivo dobbiamo fare un taglio orizzontale sulle regioni dove costa un sesto questa siringa, ma andiamo a tagliare quei 5 sesti in più delle altre regioni. Basterebbe guardare un dato, magari qualcuno si prenderà anche la briga di fare questa analisi. Andate a guardare il numero dei primari per specialità, aumenta esponenzialmente partendo da nord andando verso sud. Non sarà mica un fatto questo. Gli otorino, l'otorino laringoiatra, in Germania ce ne sono uno ogni 1 milione di abitanti, in Italia evito di dirvi il dato perché è veramente pauroso. Senta, ma mi dica, lei è disposto ad accorpare per esempio qualche ospedale, oppure può annunciare qui no, la regione Veneto posso dire non ci sarà nessun accorpamento per esempio di ospedale? Ma guardi, noi l'abbiamo già fatto questo, lo stiamo facendo ancora a prescindere da spending review, tant'è vero che abbiamo approvato il nuovo piano sociosanitario che parla addirittura di abbandono totale della spesa storica in Veneto, quindi noi abbiamo i costi standard già applicati. Ma le dirò di più, tutte le economie di scala che potevamo fare sul fronte dell'efficienza, dell'economia di scala, le abbiamo fatte, quindi il Veneto non conosce il problema dei piccoli ospedali dove ci sono magari più dipendenti, come accade in giro per l'Italia, dei posti letto. E noi questo problema non ce l'abbiamo, per questo siamo arrabbiati. Si tagli dove si spreca. Siete arrabbiati, però cosa siete disposti a fare? Cioè, a parte battagliare in Parlamento quando il provvedimento arriverà, cosa pensate di fare? Guardi, noi crediamo nella democrazia. Io sono assolutamente convinto che la spending review così impostata sia incostituzionale, ma non lo dico perché mi voglio riempire la bocca di questo termine, ma perché sono estremamente convinto che c'è una disparità di trattamento evidente tra regione e regione. Tu non puoi tagliare a me che sono virtuoso, cioè sono la belle della situazione, e premiare come al solito Caino. Cioè, allora, farete ricorso quindi? Potreste fare ricorso? Il ricorso è il minimo che faremo, tutto quello che possiamo fare per dimostrare ai cittadini che noi siamo a favore della spending review, ma che faccia pagare chi veramente sta sprecando. Senta, visto che Monti si è molto arrabbiato per le critiche fatte dal presidente di Confindustria, lei per esempio non teme poi di essere accusato di voler soffiare sul fuoco dello spread, per esempio, con queste critiche al governo italiano? Ma guardi, io penso che i problemi siano altri, non le dichiarazioni del presidente Squinzi. La verità è che Monti, se vuol fare qualcosa di positivo per questo paese, e noi tutti l'abbiamo, diciamolo, intimamente sperato, è che avesse ancora il coraggio di applicare il federalismo, quello vero. Monti sa benissimo che è costretto e sta facendo delle manovre semplicemente perché l'unica parte del paese che può ancora penalizzare è il nord, e lo sta facendo in maniera molto egregia, ci penalizza tutti i giorni con ogni provvedimento, perché ogni volta che pensa minimamente di mettere mano agli sprechi di altre parti d'Italia, qualcuno lo ferma. Ma chi qualcuno? Perché lei se lo vede un Monti che è per il sud? Ma guardi, io non so per cosa sia. I dati concreti sono che di un governatore che può semplicemente dire che si ritrova con un terzo del bilancio della spesa libera rispetto a prima. E soprattutto le parla il governatore di una regione che non ha applicato l'addizionale IRPEF. Penso di essere l'unico in Italia a non aver applicato tasse ai miei cittadini da 2 anni a questa parte. Noi no, in Veneto non si paga l'addizionale IRPEF. Penso che quando tu chiedi di applicare, come è accaduto, sto parlando del governo Berlusconi, un ticket per pagare i mancati trasferimenti da Roma verso le nostre regioni per la sanità, e ti accorgi che il nord, ad esempio la mia regione, deve pagarlo più alto perché ci sono regioni in giro per l'Italia che hanno troppi agenti ticket, questa è la dimostrazione che ci vorrebbe più coraggio. Insomma, visto che è periodo di voti, tutti gli danni, dia il suo voto a Monti, mi sembra un disastro, cioè almeno dal suo punto di vista. Il voto al governo Monti, che voto darebbe? Ma guardi, cioè io penso che non... Il problema non sia quello di dare le pagelle, non ho mai dato voti ai professori, ho sempre odiato questo sistema. Per me è un NC non classificato. Non classificato. Lei su un argomento specifico, quello dell'area metropolitana di Venezia, addirittura ha detto che il governo cerca la rissa con il nord. In che senso addirittura? Ma guardi, che ci voglia una ristrutturazione ci sta, ma che si decida di farla solo in Veneto, cancellando la provincia di Venezia e dicendo che dal giorno dopo chi governerà questa provincia sarà il sindaco di Venezia, con tutto il bene che voglio a Giorgio Orsoni, che è un amico, una persona che stimo, che è sindaco di Venezia. È impensabile fare questo, ma lo sa benissimo anche il sindaco di Venezia, perché la provincia di Venezia non si identifica tutta su Venezia. È una provincia particolare, peraltro con dei comuni secessionisti che chiedono di andare in Friuli, e il governo lì, come quelli che fanno i giochi di guerra programmando con il compasso e facendo calcoli su territori che manco conoscono, decidono che questa provincia, che è lunga e stretta, quindi sono dei comuni distantissimi dal capoluogo, prova ne sia che anche in questi giorni si è fatto un voto per il passaggio di alcuni comuni al Friuli, si decide che il sindaco di Venezia debba governare di fronte a una presidente di provincia eletta democraticamente da tutti. Ma almeno sulle province, ecco, mi dica la sua, cioè, nel senso, perché voi dice respingo tutto quello che sono le idee di tagli perché noi in Veneto siamo già virtuosi. C'è un qualcosa su cui può cedere? Per esempio le province, appunto, secondo lei sono utili, servono? Ma guardi, lo chiede un ex presidente di provincia che non ha passato il suo tempo a giocare a dama o a scacchi. E noi abbiamo fatto opera, abbiamo fatto coordinamento. E le dico solo che nel 2000 io ho chiuso tutte le discariche in provincia di Treviso e siamo ancora oggi la prima provincia d'Italia per la raccolta differenziata. Ci vuole un livello intermedio tra regione e comune, questo è fuori di dubbio. La verità è che ci sono delle province che vanno chiuse. Penso che le piccole province, le province, le nuove nate in virtù dei grandi campagne elettorali che si sono fatte in giro per l'Italia, quelle sicuramente non ci vedo nessun problema perché vengano chiuse. Mi tolgo una curiosità, alla fine l'ha pagata l'IMU lei, perché Maroni l'ha pagata e ha detto di sì, lei l'ha pagata? Guardi, io l'ha pagata mia moglie, visto e considerato che io non sono titolare di nessun immobile, l'abbiamo pagata, abbiamo fatto questa battaglia, crediamo che sia una battaglia sacrosanta da fare, e devo anche dire che ho dichiarato in tempi non sospetti che noi, se qualcuno vede le mie dichiarazioni, noi dobbiamo fare le battaglie ma non mettere nei guai i cittadini. Quindi alla fine ha ceduto, non ha fatto la resistenza, non ha obbligato sua moglie soprattutto a fare la resistenza fiscale. No, guardi, cioè, le tasse vanno pagate, soprattutto in questo momento nel quale i cittadini hanno bisogno di certezze. E dico soprattutto perché magari in altri momenti qualcuno si permetteva anche di dire non la pago, mi faccio fare il fermo amministrativo, che so, dell'automobile piuttosto che del motorino. La verità è che comunque si risponde alla legge rispettando la legge, ma ci si può opporre alla legge utilizzando la legge. Mi faccio fare un'ultima domanda sulla questione sulla tenuta politica, perché Formigoni, proprio a questi microfoni, 3 giorni fa ha detto, attenzione, ha ribadito questo, che lui non chiama ricatto politico, però suona un po' così, cioè se cade la regione Lombardia, il patto che tiene in piedi anche la regione Piemonte, la regione Veneto, che è il patto PDL-Lega di qualche anno fa, a questo punto viene meno, quindi se cade una regione potrebbe cadere anche altre regioni. Lei come lo chiama? Ricatto, una legittima rivendicazione politica del presidente Formigoni? Guardi, chi mi conosce sa benissimo che io parlo delle mie cose, parlo sempre dell'amministrazione, prova ne sia che quando sono invitato nei talk show, se gli argomenti sono quelli come questo, evito. E penso che i miei veneti non siano interessati a sentir parlare il loro governatore difatti che poi non interessano a nessuno. I veneti vogliono vedere risultati, come i lombardi, i piemontesi. Se si mandano a casa le amministrazioni perché lo decidono le segreterie di partito, vuol dire che è la fine. Ma nel mio caso io rispondo ai veneti. Però Formigoni l'ha tirata in ballo, cioè nel senso ha detto se cade qui allora cade, poi rischia di cadere anche di qua e di là, cioè in Piemonte e in Veneto. Cioè non, lei non vede questo rischio, cioè si sente solido fino alla fine del mandato? Ma guardi, non è proprio una mia preoccupazione, non ho mai vissuto con l'ansia di cadere, di restare in piedi, di pensare a cosa farò quando avrò finito il mio mandato. Penso che i cittadini abbiano sempre apprezzato questo, i risultati mi hanno sempre dato ragione. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei. Grazie per essere stato con noi, al governatore del Veneto, Luca Zaia, della Lega, ovviamente ho dimenticato di dirlo, ma insomma lo sapete un po' tutti. Noi ci dobbiamo fermare 3 minuti per la pubblicità e il meteo, e poi cercheremo di capire perché in Italia ci sono ancora dei sindaci, in questo caso è un sindaco, il sindaco di Marsala, che sarà nostro ospite, che è anche deputato regionale della regione Sicilia, e tutto questo è incompatibile per una legge, una sentenza della Corte Costituzionale, cioè il nostro organismo principe, quello che vigila sulla Costituzione, sul rispetto della Costituzione. Ci sono dei sindaci che hanno lasciato per questa doppia carica incompatibile, altri hanno fatto fatica a lasciare, altri come il sindaco di Marsala per il momento non lascia, e noi ce lo chiediamo sempre il perché. E lo chiediamo a voi, perché? 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta dopo il governatore Luca Zaia. Allora, come detto, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, mica di un TAR qualsiasi, della Corte Costituzionale, che nel 2011 si era espressa in pratica a dire che chi è sindaco di un paese sopra i 20.000 abitanti non può fare contemporaneamente anche l'onorevole, per esempio il deputato, ma anche il deputato regionale siciliano, per esempio. E per questo molti sindaci e deputati hanno dovuto optare, hanno dovuto scegliere, hanno dovuto lasciare una delle due incarichi. Tra l'altro di questa materia sa tutto un avvocato, l'avvocato Antonio Catagliotto, che saluto, buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Eccoci qua, l'avvocato Catagliotto, tra l'altro l'avvocato che ha dato il via, no, a tutti questi ricorsi. Lei è considerato l'avvocato che odia il doppio posto, la doppia poltrona, e quindi ha dato spunto a questa sentenza della Corte Costituzionale, così? Sì, in effetti è così. A dire il vero, le sentenze della Corte Costituzionale già sono 3, in effetti, su questa materia. C'è la prima sentenza della Corte Costituzionale dell'aprile addirittura del 2010, che riguarda i deputati regionali, cioè il doppio incarico con le cariche di amministratore, di sindaco, presidente della provincia, di comuni superiori a 20.000 abitanti. Poi c'è l'altra sentenza che riguarda invece i deputati nazionali, cioè il deputato alla Camera e al Senato, dell'ottobre del 2011. Perché lei fa questo? Cioè perché lei fa questi ricorsi che poi sono sfociati in queste sentenze della Corte Costituzionale? No, io ho fatto questi ricorsi innanzitutto perché ho avuto intanto il mandato da parte dei diretti interessati, cioè qualcuno era il primo dei non eletti, qualcun altro appunto, soprattutto qui a Messina, ha voluto fare un'azione popolare. Ma sostanzialmente su Messina, il caso del sindaco Buzzanca, è stato nostro ospite varie volte, alla fine ha ceduto e credo ha lasciato l'Assemblea regionale siciliana. Dopo. Non volontariamente, no. È stato costretto a lasciare. È stato dichiarato decaduto. Sì, esatto, perfetto. Quindi stavo dicendo, su questa materia, siccome se ne parlava ormai da parecchi anni, su questo doppio incarico, soprattutto a livello nazionale, e un po' tutti i partiti insomma si limitavano solo a parlarne senza alcun fatto concreto, anche perché tutti i vari disegni di legge che facevano sistematicamente restavano dormienti in Parlamento, e allora mi sono messo un pochettino a studiare, a approfondire la questione, ho visto che c'erano ampi margini per poter proporre una questione di costituzionalità. Allora, gliene presentiamo uno. Voglio salutare il sindaco di Marsala, Giulia Adamo. Sindaco, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E anche lei deputato regionale della Regione Sicilia. Capogruppo, credo, dell'UDC, no? Dell'UDC. Allora, c'è qui l'avvocato Cataliotto, che forse lei conosce, fa questi ricorsi. Lei lo sa di essere incompatibile per la Corte Costituzionale? Certo. Sono incompatibile, sono stata eletta un mese fa, quindi credo di non essere un caso nazionale. Sono stata eletta un mese fa e in Sicilia in questo momento stiamo vivendo un periodo molto particolare. Abbiamo già tutti firmato la sfiducia al governo, che si dimetterà, così ha annunciato, alla fine del mese. Il ritardo nelle mie dimissioni è dovuto al fatto che, come capogruppo e presidente del partito in questo momento, il partito mi chiede di mantenere questo ruolo politico in un momento così difficile. L'UDC le chiede di mantenere, visto che il 31 luglio, credo, Lombardo si dimette. C'è la sfiducia, visto che sono il capogruppo e visto che c'è un'altra questione, la persona che dovrebbe sostituirmi si è candidata proprio per non fare cadere la lista, perché ci fu alle ultime elezioni regionali, c'è stato il tentativo da parte di alcuni componenti della lista di far proprio letteralmente cadere la lista, nel senso che sono tutti ritirati, e quindi noi non potevamo a distanza di poche ore più presentare la lista. Chi le subentrerebbe? Allora due persone si sono candidate immediatamente per consentirci di presentarci alle elezioni. Quindi la persona che è stata eletta dopo di me ha 30 voti, non ha una competenza specifica, non voleva fare il deputato, ecco, quindi noi in questo momento riteniamo, e mi sembra anche legittimo, che visto che stiamo lavorando al nuovo programma per il futuro della Sicilia, speriamo che sia quello giusto, perché abbiamo avuto due esperienze pessime, prima con Cuffaro, con Lombardo, vorremmo francamente cambiare le cose. Allora, si ritiene che il mio ruolo, io sono stata sempre importante, mi faccia capire se ho capito, sindaco. Vediamo. Lei dice è un momento difficile, la regione sta cadendo, si andrà a votare poi a ottobre, se dovessi lasciare mi subentrerebbe una persona che per beghe politiche ha preso 30 voti, che non stiamo a ricostruire, quindi una persona che non ha esperienza. Però c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Una sentenza dice che ho un certo periodo di tempo per dimettermi, quindi visto che si sta parlando di 1 o 2 mesi, non c'è in questo momento una violazione della legge, cioè quello che tutti hanno fatto nel passato, di solito sono sindaci che sono stati eletti 2, 3, 4 anni fa, ancora non sono dimessi, forse in quel caso bisognerebbe intervenire. Devo dire che si sono dimessi più o meno tutti, ormai hanno fatto resistenza. Se ci fosse una violazione della legge, io mi sarei già dimessa, quindi non c'è nessuna violazione di legge, c'è un'attesa, c'è un tempo che normalmente il deputato si prende anche per sistemare un passaggio di consegne. Mi sembra ovvio, francamente, che non credo di rappresentare un caso. Non so se è un caso, sono stata eletta per 2 volte, ma questo come deputato sicuramente della provincia. Ho fatto una scelta, credo che questo vada detto, io ho fatto una scelta politica, ho fatto quello che molti ritengono il famoso passo indietro, perché ma che invece per me è un poi quello che mi piace passo della politica, passo indietro mantiene, perché il fatto di restare deputato per 2 mesi non credo che sia questo grande ma è chiaro che io non sono più assolutamente ricandidato. Questo è un punto, cioè quando ci sarà la nuova giunta regionale, quando ci saranno le prossime elezioni, quindi ad ottobre, io non potrei neanche, cioè la legge, ecco lì la legge è chiarissima, io non sono candidabile. Faccia capire, l'avvocato Cataliotto, cioè in questo momento il sindaco ci sta dicendo al limite saranno 2 mesi di situazione, avvocato. Ma se vuole farmi causa? No, ma che c'entra causa? Chiedevo all'avvocato Cataliotto, sono 2 mesi al limite di situazione di incompatibilità, però insomma non sto violando nessuna legge, la situazione politica è così, c'è un tempo per decidere, cioè, che mi sto prendendo, avvocato. Diciamo che già sono trascorsi 2 mesi dalle elezioni, da quando l'onorevole è stato anche eletto sindaco di Marsala, quindi già 2 mesi sono trascorsi. se consideriamo, dico, da quello che si vocifera qui in Sicilia, che ci dovrebbero essere le elezioni anticipate a fine ottobre, quindi a questi due mesi andiamo ad aggiungere questi ulteriori mesi, e quindi, ma per carità, io non discuto questo, saranno 5-6 mesi, il problema è che in questo momento, a seguito di queste sentenze della Corte Costituzionale, l'onorevole è in una situazione di incompatibilità e avrebbe già dovuto optare, cioè per l'una carica o per l'altra. Dopodiché in Sicilia non c'è più nessun sindaco che riveste il doppio incarico. L'ultimo era Buzzanca, l'onorevole Buzzanca, sì, che ha resistito con 100.000 ricorsi, però alla fine ha dovuto soccombere. Quindi il problema non è se da un punto di vista il partito gli chiede all'onorevole di restare, per carità, questi sono aspetti, profili politici, sì, su cui io non entro nel merito perché non compete a me. Ecco, questa, diciamo, è questa che... l'accusa che si fa, diciamo, al sindaco, senza crearne un caso, cioè se ci sono dei problemi politici all'interno del partito che le chiede, eccetera. Però queste sono questioni politiche che francamente di fronte a una sentenza della Corte Costituzionale dovrebbero venire in secondo piano, sindaco. No, poi vorrei sottolineare un altro aspetto che mentre l'onorevole Adamo, capogruppo dell'UDC, fa questo ragionamento, il suo deputato, un deputato del suo gruppo, l'onorevole Ardizzone, a suo tempo si dimise subito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, ma in più ieri ha sollevato una polemica, correttamente secondo me, perché c'è l'onorevole, il presidente della regione, l'onorevole Lombardo, che in sostituzione dell'assessore Chinnici vorrebbe nominare in giunta un sindaco. Allora, il sindaco, a prescindere dalla grandezza del comune, non può fare l'assessore in giunta regionale, e l'onorevole Ardizzone ha sollevato questa questione. Ma perché non può farlo? Non può farlo per opportunità o non può farlo per legge? No, perché c'è la norma, è l'articolo 12 della legge 7 del 90, comma 5, che dice che i sindaci non possono entrare in giunta. E perché uno vuole mettere un sindaco? E chi sarebbe questo sindaco che vorrebbe mettere Lombardo? E questo qua dovremmo chiederglielo all'onorevole Lombardo. Vabbè, ma ha fatto il nome? Cioè, ha fatto il nome? No. Ha detto semplicemente che avrebbe nominato un sindaco in giunta. Così, come dire, proprio per andare contro la legge, non ho mica capito. Facciamo le informazioni sul traffico, poi torniamo un attimo al sindaco di Marsala e il deputato Adamo che replicherà su questo. Allora, siamo con l'avvocato Cataliotto, con il sindaco di Marsala e capogruppo dell'UDC alla Regione Sicilia, Giulio Adamo, per parlare di incompatibilità dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Prima, incompatibilità di ruoli, ovviamente. Fatemi sentire Aldo da Messina, ci ha chiamato all'800240024. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Da Messina, dica. Sì, senta, io telefonava a proposito di riagganciarmi al fatto del doppio incarico che si ha nei mesi. Sì, sì. Ero un po' arretrato perché non conoscevo il fatto della situazione di Buzzanca, il sindaco di Messina. È stato nostro ospite un paio di volte su questo tema. Ho sentito che praticamente si è dovuto dimettere da una delle dall'Assemblea regionale siciliana. Sì, l'hanno dichiarato decaduto e quindi ha optato. Decaduto dopo tante forzature, non decaduto per sua volontà. No, perché chiaro, se fosse stata per sua volontà diretta, come è successo anche per altri casi, non si sarebbe mai Ma guardi che lui, Aldo, è stato nostro ospite varie volte a dire: no, io legittimamente penso di non occupare due poltrone, vado avanti, combatto, sono stato eletto. Quindi sono discussioni che si fanno a livello politico per giustificare tante altre cose. Siccome ormai, veda, la base, la gente, non è più come una volta, l'anello al naso non ce l'ha più, e di conseguenza sappiamo benissimo quali possono essere gli interessi, soprattutto quelli di partito a cui appartiene ognuno, sia di destra che di sinistra, che in questo momento in Sicilia cercano di accaparrarsi il più possibile, secondo me, il più possibile voti, illudendo la gente. Il discorso è uno solo, che la crisi che praticamente sta attanagliando specialmente il sud della Sicilia, e la Sicilia dico, dovrebbero dare più l'esempio gli altri, che sono in alto a governarci, che è il popolo. Quindi insomma lei dice le sta parlando uno che si tratta di un esodato a 61 anni che non ho né reddito né lavoro. Quindi lei vorrebbe dalla politica vorrebbe dalla politica un esempio di più di rettitudine, non so come definirlo. Non è che l'esempio, qui si tratta non soltanto di esempio, qua si tratta di fatti concreti. I fatti concreti stanno a significare che il tessuto del popolo è fatto ormai di persone che stanno morendo o quantomeno si trovano in grandissime difficoltà, specialmente quelli che si trovano nella stessa condizione come me, e in Sicilia ce ne sono tanti, che da domani, malgrado loro ridono, scherzano e hanno il piatto bello preso pronto a casa, qui si tratta di non avere più nulla. Sa che significa nulla? No, significa di essere in mezzo a una strada. Io vedo soltanto a livello nazionale, parlare. Le dico soltanto questo, che io ho fatto una domanda di prosecuzione per quanto riguarda la mobilità. Lo sa cosa mi è stato risposto? Non ci sono soldi. Quindi significa che praticamente mi hanno battuto la porta in faccia dicendo che non essendoci soldi muori. Vai a morire, non c'è altra discussione. Questi sono gli esempi che io chiedo. Non è tanto esempi, sono fatti concreti. No, ma è stato chiarissimo, Aldo. Non credo da nessuna parte. La ringrazio. Giro, guardi questa sua testimonianza al sindaco di Marsala. Ha sentito onorevole Adamo, sì, Aldo da Messina, perché dire... Tanto, certo, pronto? Sì, eccoci qua. Allora, no, tanto poco tengo ai vantaggi del ruolo di deputato che ci ho rinunciato per sempre, pur essendo il presidente del partito, il capogruppo dell'UDC, come glielo devi dire, la prima degli eletti. Ci ha rinunciato, però è lì per ora. Ho rinunciato per il futuro. E per il futuro? In questi... Senta, la prego, mi se scusi, lei continua a sostenere. No, mi scusi, però. Senso... No, però lei mi deve lasciare parlare. No, ma le chiedo, ci ha rinunciato per il futuro, che vuol dire? Diventa un qualunquismo da quattro soldi. Allora, ci ho rinunciato perché non mi posso più candidare, pur avendo le possibilità concrete di fare il senatore e di fare il deputato. Ho preferito fare il sindaco perché l'attività mi saliva che mi piace. Se lei ritiene che in questi due mesi le sorti del governo migliorerebbero se al mio posto andasse una persona che ha preso 30 voti, lei ritiene, lei ha veramente un profondo rispetto per il sistema democratico e civile. No, ma io, del nostro paese. Io rispetto per una sentenza della Corte Costituzionale. Non posso sostenere che dietro questa mia scelta di restare due mesi per guidare il mio partito in un momento di crisi ci sia un interesse personale. Ma mi scusi, ma non è questione di. Ma io non dico interesse personale, però io dico semplicemente c'è una sentenza della Corte Costituzionale, non l'ho fatta. Allora, io, non l'ho fatta mio io. Caro ascolti, se c'è una sentenza io decado, la sentenza dice che non sono più ricandidabile, questo lo so e l'ho scelto ad occhi aperti, e la sentenza dice che ho un certo tempo per dimettermi, io mi sto prendendo certo questo tempo perché al mio posto arriverebbe una persona che non potrebbe guidare il partito. Ma ecco, capisce, per capisce che questo che però... qualsiasi cittadino capisce. Va bene, poi, scusi poi, sindaco, ascolti, mi scusi, poi, scusi, posso, no, farle anche, deve... posso farle anche una domanda ogni ma tanto. Certo, allora, le chiedo questo, di fronte a quello che ci ha detto l'ascoltatore da Messina, secondo lei l'ascoltatore da Messina che ci ha parlato di soldi che non ci sono, di difficoltà a arrivare a fine mese, capisce le beghe politiche all'interno dell'UDC per cui lei non lascia, le capisce secondo lei? Forse non le capisce lei, ma il cittadino lo capisce, perché le mie dimissioni, no, mi lasci rispondere, perché le mie dimissioni non portano una lira in più all'interno delle casse dello Stato, le mie dimissioni in questo momento fanno risparmiare il comune di Marsala, mi lasci parlare, che non mi paga l'indennità, le mie dimissioni in questo momento le mie fanno risparmiare soldi al sistema e per di più garantisco alla politica una guida scelta dal popolo che mi ha scelto, sono alla prima eletta nel mio territorio. Ma infatti, nella mia provincia. Infatti lei deve alla fare il sindaco di Marsala tra due mesi, ma mi lasci parlare, mi ha fatto una domanda, sto facendo parlare da mezz'ora. Tra due mesi il popolo sovrano sceglierà chi deve andare al mio posto, lo sceglierà con le elezioni. Quindi è perfettamente, io sono convinta che mi ha capito e come. Ma sì, ma... Intanto perché io, mi scusi. Io ho capito che lei non vuole lasciare il posto a una persona che ha preso 30 voti, non è esperta, eccetera. Ma quindi... non solo, questo fa risparmiare, perché naturalmente in questo momento non ho prende l'identità il di stipendio. Sindaco. Certo che lei deve credere che glielo sto dicendo io e perché è la verità. Perché in questo modo non si paga l'indennità di sindaco, le mie dimissioni non farebbero risparmiare una lira, farebbero creerebbero confusione all'interno del partito. È questo che forse la gente non capisce. E siccome questo durerà per pochi mesi, noi riteniamo che questa cosa, se ci fosse una legge, se io stessi trasgredendo una legge, decadrei immediatamente. Va bene. Quindi... Lei, avvocato Catagliotto, cioè secondo lei, come dice il sindaco, il cittadino comune capisce invece le legittime preoccupazioni politiche del sindaco e deputato Adamo, che stiamo facendo un casotto per 5 mesi, poi il dato di fatto è questo? Io volevo fare... Per riprendere l'intervento del cittadino mio compaesano di Messina, volevo altresì sottolineare un aspetto veramente paradossale, perché oggi stesso, mentre il cittadino di Messina si lamenta perché è un esodato e quindi ci sono gravi problemi occupazionali, il presidente della giunta di Messina, l'onorevole Nanni Ricevuto, PDL, si accinge ad aumentare i propri assessori da 11 a 15. Questa è una notizia proprio allora è vera questa cosa, che era arrivata all'orecchio anche a me. No, lo voglio chiamare assolutamente il presidente della provincia di Messina, quando si sta discutendo se tagliare le province, vuole aumentare il numero degli assessori. E perché? No, vuole aumentare. Questa mattina già è indetta alla conferenza stampa le aumenta. Fare 4 assessori in più, di cui 2 dell'UDC, 2 o 3 dell'UDC. E sostanzialmente noi avremo Messina che avrà 15 assessori provinciali, Palermo ce n'ha 10 e Catania ce n'ha 9. Cioè più di Palermo, più del capoluogo, esatto. Messina più del capoluogo. Evviva! Sì. No. Per ritornare nel tema, io sono l'articolo 1 della Costituzione è chiarissimo. La sovranità appartiene al popolo, che viene esercitata nei limiti della Costituzione. Se c'è la Corte Costituzionale che ha fissato il divieto del doppio incarico, ciascuno si deve immediatamente adeguare. Dopodiché, se l'onorevole Adamo ritiene di non adeguarsi, basterebbe che un qualsiasi cittadino di Marsala facesse un'azione popolare chiedendo la decadenza da sindaco e il problema sarebbe posto. Vabbè, ma sarà una questione di pochi mesi comunque. La ringrazio, sindaco Adamo, per essere stata con noi. Giulia Adamo, sindaco di Marsala, capogruppo UDC alla regione, così come l'avvocato Antonino Catalioto. Se è vera questa cosa del presidente della provincia di Messina, dobbiamo chiamarlo subito, assolutamente. Ci fermiamo qui, @24mattino, il nostro account Twitter, @AlinoMilan. Sono io, ringrazio Alessandro Longoni in redazione e l'alpino Peter Bescapè, tornato, a domani.